Cari amiche, cari amici, Bruxellando, bentrovati, bentrovate, martedì sera, sono le 21 e siamo già al 2 di marzo, insomma questo tempo che corre così velocemente. Siamo ben felici di trovarci nuovamente qui questa sera, la nostra equipe è al completo e come sempre una gioia insieme una soddisfazione quando siamo tutti e quattro qui ai microfoni. Quindi saluto proprio tutti, Dani M. in regia, Fiordaliso che sono sicura ci ha riservato tantissime belle sorprese per il Librangolo e il nostro Georges Laurent che, ahimè, nonostante tutti io dicano che la sigaretta non fa bene, vabbè, insomma, a ciascuno il suo, quindi fra poco ci raggiungerà. Questa sera è il primo, quindi, martedì del mese e continuiamo questa piacevole abitudine che ci caratterizza già da due mesi di questa rubrica particolare che abbiamo chiamato Curiosando e ritorna piacevolmente ai nostri microfoni Domenico Vecchioni, il quale ci aveva lietato qualche tempo fa di Signori della Truffa, quindi ci aveva raccontato piacevolmente di avventure così inverosimili da sembrare assurde o inventate chissà da quale regista. Invece no, era tutto vero, ha raccolto il meglio di quello che è di quelli che sono stati i truffaldini della storia. E questa sera noi abbiamo scoperto di Domenico un altro lato piacevolmente interessante che ci ha incuriosito ed interessato e riguarda le spie. La storia di spie, pensate che, e Domenico poi ce ne parlerà più nel dettaglio, Domenico ha scritto delle spie della Seconda Guerra Mondiale, le spie del fascismo, uomini, apparati e operazioni di intelligence nell'Italia del Duce, spie, storia degli 007 dall'antichità all'età moderna e quelli dall'era moderna ad oggi. Quindi noi questa sera cercheremo di saperne di più. Questa è una settimana molto particolare per tutti quelli che amano il Librangolo e i libri in particolare, perché come sapete inizia la Fiera del Libro e quest'anno è un'edizione abbastanza speciale. Infatti la Foire du Livre, meglio conosciuta quindi con la sua accezione francese, festeggia il suo 40° anniversario. Pensate, questa manifestazione che fu lanciata per la prima volta nel 1969, si ritrova a spegnere già 40 candeline, ci si ritrova quindi a riformulare, magari rivedere o interrogarsi quello che è l'avvenire del libro stesso. Come sapete, il libro in generale negli ultimi decenni ha subito importanti cambiamenti, siamo passati dal libro cartaceo, il libro per pochi, il libro per tanti, per ritornare poi a queste invenzioni che ci provengono un po' in giro dai quattro angoli del globo, da quelli che sono oggi gli ebook a quello che noi possiamo scaricare sugli iPod. Quindi il martedì prossimo avremo modo di parlare nel dettaglio anche di questo aspetto interessante che riguarda la letteratura e in generale comunque anche la poesia. Quindi invitiamo tutti coloro i quali amano il libro di recarsi quindi alla fiera, che è comunque un importante momento di incontro, di scoperta e di dibattito. Tutto questo avverrà a Tour de Taxi, che è Avenue du Port 86C a 1000 Bruxelles, e le tariffe per entrare sono di 5 e 7 euro. La manifestazione inizia giovedì 4 e venerdì 5 dalle 10 alle 22, invece sabato 6 e domenica 7 la manifestazione chiude alle 20, ultimo giorno lunedì 8 alle 19, quindi 5 giorni ricchissimi di tante novità che caratterizzeranno la letteratura del 2010. Giorgetto! Eccomi! Eccolo lì! Allora, ben trovato! Ben trovati a tutti voi! Bene, bene, siamo finalmente a marzo. Il detto sì. Una volta diceva che quando arrivava marzo... Aspetta, ce l'ho detto, no? Come diceva? Come diceva ancora, esci di casa senza l'ombrello, ritorni a casa tutto bagnato. Beh, una cosa del genere. però in realtà non so esattamente come funziona. C'è un po' di distrazione. Cosa succede? In regia abbiamo dei problemi. Vabbè, la regia comunque, mi distrae. Allora, i pesci sono all'onore. Aha. Allora, in questo anno internazionale della biodiversità, questo sinceramente mi mancava. Io non sapevo che era. Tu sapevi, Fiordaliso? Sì, devo confessare che lo sapevo. Anche la settimana verde della commissione di quest'anno sarà in tema di biodiversità. Olla Peppina. E quando è la settimana verde della commissione? Maggio. Ah, vabbè, abbiamo tempo allora per parlarne. Sì, abbiamo tempo. Insomma, questo anno internazionale della biodiversità, l'accordo di Bruxelles desidera mettere in luce o dare lustro ai pesci. Beh, cioè non è che siano dei pesci qualsiasi, in effetti dal 20 marzo, anzi scusate, fino al 20 marzo, quindi insomma è una cosa che succede adesso fino al 20 marzo, dietro la presentazione di una carta d'identità, gli adulti nati sotto il segno dei pesci, quindi tra il 20 febbraio... Quindi mi riguarda! Ti riguarda? Sì, mi riguarda! Avranno l'entrata gratuita! All'acquario di Bruxelles. Allora ci vado, quando? Certo, allora. Così questi pesci, nati sotto il segno dei pesci, come diceva una vecchissima canzone di... Venditti. Bravo. Nata sotto il segno dei pesci. Potranno scoprire degli altri pesci che però invece sono gravemente minacciati o sono persino scomparsi dal loro ambiente naturale. Io vorrei tanto vedere uno squalo. Beh, io credo che di squali ce ne siano, noi ne abbiamo visti di qualcuno, di squali, non molto grande, dire il vero, per nostra fortuna. E quindi all'acquario pubblico di Bruxelles, in Avenue Émile Bosser, 27, dunque, è aperto il sabato e la domenica, dalle 10 alle 17, e dal martedì al venerdì, dalle 12 alle 17. Questo quando, da quando a quando? Beh, è cominciato il 20 febbraio ed è fino al 20 marzo, ovviamente, durante il mese dei pesci. Beh, l'acquario è sempre aperto, però insomma la cosa simpatica è che quelli che sono nati sotto il segno dei pesci possono entrare gratuitamente. Solo quelli del cancro no? Gli altri segni d'acqua? Quelli del cancro no, neanche quelli dell'acquario. È un po' strano, perché non capisco perché l'acquario di Bruxelles non faccia entrare gratuitamente quelli nati sotto il segno dell'acquario. Insomma, questa cosa... Scriveremo all'acquario di Bruxelles dicendo che... Protestando! Sono... sì, c'è una discriminazione, magari coinvolgiamo anche la commissione su questa cosa qua. Ci appelliamo alla Corte di Giustizia. Allora, teatro. L'eroismo ai tempi della grippe aviaria, ai tempi dell'influenza aviaria, che ti ricorda? Non mi ricorda nulla. Un libro? Ai tempi del colera? Sì, quello sì. Quale? García Márquez. È l'amore ai tempi del colera. Brava, vedi, l'amore l'ho ai tempi letto, del colera. L'ho letto. Ecco, l'amore ai tempi del colera, quindi c'è l'eroismo ai tempi dell'influenza aviaria. Una cosa un po' interessante, anzi, personalmente mi interessa anche molto, perché... Perché? Perché tutta questa faccenda dell'influenza H1N1, il virus, che poi qua e là, eccetera, insomma, adesso cominciano a girare anche delle mail divertenti su questa influenza H1N1 che ha fatto così tanti morti che insomma ci vogliono almeno due mani per contarli, e magari bastano due mani, forse tre. E quindi anche al tempo dell'influenza aviaria insomma abbiamo avuto non so quanti morti, ma molto pochi, molto meno di quelli che ci aspettavamo, quindi per fortuna, crederci o non crederci, non ci è veramente letale o non è letale, non lo so. Comunque, dopo il successo della creazione di questa invenzione di Thomas Gunzig, e così con la direzione di Alexandre Rouet, ci sono nuove altre tre date eccezionali nel quadro della sua tournée. Cioè. E quindi ecco la storia: un giovane uomo, singolo e che una carica, la madre malata, diviene Spider-Man, niente meno. Dopo è stato, così, questo lo sappiamo, punto da un ragno mutante, ma i superpoteri sembrano efficaci per ottenere un formulario C42bis. All'ONEM. Addirittura? Mio Dio. Sì, quindi insomma una cosa, un uomo che si scontra con la burocrazia. Beh, in questo testo strano e amaro Thomas Gunzig disegna il ritratto emozionante di un supereroe un po' così, un po' strampalato, un po' goffo, fan dei film di Kung Fu e delle musiche di John Williams e quindi è un disoccupato che tenta di sopravvivere alla miseria sociale ordinaria. È insieme un omaggio alla cultura popolare, vocazione di un belga, anzi di un belgio un po' disincantato. Quindi l'eroismo ai tempi di influenza aviaria circonda i sogni e le frustrazioni di un eroe del quotidiano. Allora, dove lo fanno? Allora, all'Atelier 210 a Chaussée Saint-Pierre a Etterbeek. E comincia il 9 marzo, quindi attenzione, sono tre date, non 300.000, 9, 10 e 11 marzo, e la tariffa, beh, 8-16 euro, insomma, abbordabilissima, e ve lo ricordo, all'Atelier 210 a Chaussée Saint-Pierre a Etterbeek. Allora, come accennavamo poc'anzi, il nostro graditissimo ospite nuovamente qui questa sera, Domenico Vecchioni, che come accennavamo questa sera ci racconterà nell'abito di Curiosando qualche chicca sulla storia dello spionaggio. Domenico. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, bentornato, Domenico. Bentrovato, spero possa udire chiaramente le nostre voci. Sì, non so, voi mi sentite bene, perché io sento una eco della mia voce. Voi mi sentite bene? Noi sentiamo benissimo, però l'eco bene. È vero che c'è, sappiamo bene. Che i nostri... Comunque, lieto di ritrovarvi, un saluto alla redazione e agli ascoltatori. Allora, noi durante la prima intervista avevamo scoperto tante storie interessanti che proveniva dal mondo dei raggiri e degli impostori più famosi. Questa sera invece facciamo un po' un passo indietro e ci interroghiamo invece sugli ingranaggi dello spionaggio, oserei dire anche mondiale. Sì. Da dove nasce questa sua passione per la scrittura? Ma guardi, è un po' le stesse motivazioni dell'altra volta, da una parte questa abitudine che hanno un po' tutti i diplomatici, no? La scrittura che poi qualcuno si porta dietro con sé anche oltre, come dire, le funzioni istituzionali dell'ufficio, e poi il gusto di raccontare storie di personaggi un po' così bizzarri, strani. Io ho cominciato in realtà a interessarmi più dei personaggi che non delle questioni dello spionaggio, dell'intelligence, che sono arrivate dopo. A me interessavano più le storie umane di questi agenti, insomma. E poi un po' alla volta è arrivato anche il desiderio di scrivere un po', non un trattato accademico sullo spionaggio, perché ci sarebbe voluto, insomma, molto più impegno e più tempo, però è una storia dello spionaggio raccontata ai giovani, agli studenti, per dare proprio un'idea di questo mondo a volte poco conosciuto, difficile. Ho cercato di farlo però appunto in maniera leggera, perché l'argomento di per sé è piuttosto impegnativo, no? Perché parto dall'antichità fino ai nostri giorni. Però ho cercato di, con questi ritratti, di rendere la lettura meno pesante. Allora, io ho avuto modo, insomma, di leggere delle cose, e partiamo dall'antichità. Rispetto poi all'evoluzione stesso del concetto di spia, come evolve il concetto di spia se paragonato nelle diverse epoche storiche che lei ha avuto modo di analizzare? Guardi, bisogna essere molto sintetici, perché se no non basterebbe, più trasmissioni. E, grosso modo, diciamo che si dice che si hanno notizie di attività informative finalizzate addirittura dall'antico Egitto, a partire dalla 18ª dinastia, quando già nella corte del faraone esisteva un alto funzionario che si chiamava le orecchie e gli occhi del faraone, che è una specie di capo dei servizi ante litteram, che sovrintendeva un po' a tutti i servizi informativi. Però, volendo sintetizzare al massimo, si può dire che fino alla prima guerra mondiale, diciamo, lo spionaggio è stato sempre solo militare, cioè raccolta di informazioni per vincere o comunque per preparare una guerra. E solo a partire dalla prima guerra mondiale che si passa dal concetto classico di spionaggio a quello più ampio di intelligence, che è una cosa un po' diversa, perché in realtà l'intelligence è tesa a raccogliere delle informazioni, ma proprio per evitare una guerra. Cioè lo spionaggio ha un carattere offensivo e l'intelligence è piuttosto difensivo, è un sistema informativo che poi si rivolge al potere politico, che poi prenderà la decisione che riterrà opportuna in base alle alle informazioni raccolte con metodi normalmente legittimi. È vero che a volte è difficile distinguere tra spionaggio e intelligence. Comunque, durante la prima guerra mondiale che incomincia questo passaggio. Perché? Perché per la prima volta la guerra è un po', come dire, totale, tutto il paese è coinvolto nella guerra, quindi per la prima volta anche i civili entrano nello spionaggio, per cui non so, matematici, ingegneri, docenti universitari, linguisti cominciano a lavorare accanto agli esperti militari, perché non interessa solo sapere quante divisioni ci sono in un certo luogo, quante spostamenti delle truppe, ma insomma interessa sapere anche lo stato economico del paese, la sua capacità di tenuta bellica, e quindi c'è questo primo passaggio da un'attività esclusivamente militare a qualcosa di più ampio, che poi si caratterizza meglio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando addirittura la guerra è globale, addirittura i civili per la prima volta partecipano direttamente alle operazioni belliche, no? I movimenti di resistenza, e quindi i servizi si devono adattare alle strategie più diversificate, insomma, dallo spionaggio politico alla guerra psicologica, alla deception, e oltre ad un fantastico sviluppo delle tecniche per decifrare e cifrare, no? Non per niente la Seconda Guerra Mondiale comincia con una operazione di deception fatta dai nazisti, perché se voi prendete i giornali del primo settembre del 39, si parla di un'aggressione polacca ai tedeschi, perché era stata montata tutta un'operazione che si chiamava l'operazione Himmler da parte dei servizi segreti nazisti per far credere che era stata la Polonia ad aggredire la Germania, che quindi si era dovuta difendere, e guarda caso aveva già pronte 60 divisioni da scagliare contro la Polonia. E termina con un'altra operazione di, come si dice in francese, di intossicazione informativa, questa volta da parte degli alleati, la famosissima operazione Fortitude, che tendeva a confondere i tedeschi sul luogo di sbarco degli alleati. Fino all'ultimo i tedeschi non credevano che gli alleati sarebbero sbarcati in Normandia, li aspettavano a Calais, li aspettavano più a nord, e grazie ai servizi segreti alleati questo ha consentito di tenere le posizioni, di mantenere le teste di ponte per 24 ore, il tempo necessario per far arrivare tutti i rinforzi, insomma di far sbarcare tutti i militari previsti, e quando i tedeschi hanno reagito, hanno capito che in realtà qual era il vero il luogo di sbarco, era già troppo tardi, perché hanno esitato almeno 2 o 3 giorni. Quindi nella Seconda Guerra Mondiale l'attività dei servizi segreti, la cosiddetta guerra dell'ombra, è stata altrettanto importante della guerra aperta. Poi c'è la guerra fredda, un altro tipo di intelligence, un altro tipo di spionaggio, lo spionaggio tecnico, lo spionaggio economico, insomma c'è tutta questa evoluzione che, se correttamente intesa, adesso tanto per concludere, dovrebbe, anzi nei paesi democratici avviene proprio questo, l'intelligence non più inteso come uno strumento di potere al servizio di questo o di quello, ma come uno strumento di governo al servizio della collettività e dello Stato. E rispetto invece, lei mi sembra di capire che si sia occupato soprattutto prevalentemente di Italia. Un po', no, diciamo sì, anche, però un po' anche di altri paesi. Qualora quindi magari è possibile comparare i vari sistemi in Europa oppure al di fuori, insomma, dei confini europei? Ci sono similitudini, insomma, differenze? Quello che posso dire è che, come sai, in Italia c'è stata una riforma dei servizi segreti nell'agosto del 2007, e una riforma attesa da tanto tempo e che ci ha messo un po' sulla, così, almeno come organizzazione, sullo stesso livello dei servizi più moderni, quello inglese, che viene sempre citato come esempio, no? James Bond è l'agente più conosciuto dei servizi di spionaggio inglese, o quello americano. Cioè, la novità fondamentale è che prima i nostri servizi, il SISMI e il SISDE, avevano delle competenze per materia. Cioè, il SISMI si occupava di questioni di sicurezza militare, del controspionaggio, mentre il SISDE si occupava di lotta all'evasione, al terrorismo, alla criminalità organizzata. Adesso, con la riforma, sono state create queste due agenzie. Una si chiama AISE, Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna, l'altra AISI, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, per cui la suddivisione delle competenze è per base geografica, quindi un po' sul modello americano, la CIA per l'estero, l'FBI per l'interno, o quello inglese, appunto, come dicevo, dove c'è un servizio che si chiama l'MI6, MI6 per l'estero, e MI5 per l'interno. E quello che è importante è che tutta la responsabilità dei servizi adesso fa capo direttamente al Presidente del Consiglio. Okay. E poi sono state introdotte quelle famose garanzie funzionali, cioè prevedere in qualche modo gli atti illeciti che un agente può commettere, naturalmente deve esservi autorizzato di volta in volta, però adesso è più in qualche modo protetto, perché prima era tutto molto fluido, non si sapeva fino a che punto cosa potesse fare, adesso è in qualche modo previsto, sempre dietro specifica autorizzazione, e naturalmente vengono esclusi i reati più gravi. Insomma, nel sistema italiano il nostro agente non ha certo la licenza di uccidere come aveva James Bond. E poi tutta una serie di misure innovative, cioè il fatto di introdurre la possibilità di entrare nei servizi per concorso, un reclutamento abbastanza innovativo da noi. C'è anche un sito dei servizi segreti dove si spiega un po' tutto il funzionamento, anzi si invitano le persone che ritengono di poter essere utili al paese a inviare un curriculum vitae per eventualmente essere convocati. E questa è una grandissima innovazione, perché prima nei servizi si entrava solo per cooptazione, insomma, erano professionisti in genere militari che venivano prestati per qualche tempo ai servizi, e insomma il segreto di Stato, che ora per fortuna ha un termine, il segreto di Stato dura 15 anni e può essere rinnovato una sola volta, sempre da parte del Presidente del Consiglio, e comunque la durata massima è di 30 anni, e anche questa è una... Quindi insomma c'è stato uno sforzo per modernizzare i nostri servizi e porli al passo con queste nuove sfide alle quali sono confrontati tutti i servizi del mondo, perché mentre prima forse il nemico era più facilmente individuabile, adesso non lo è più. Voglio dire, prima le minacce in qualche modo erano classiche, cioè geograficamente limitate a livello di stati, uno stato si sapeva chi era il nemico con forze militari identificate, dottrine militari conosciute. Adesso con le nuove minacce la situazione è molto più complicata, perché sono minacce transnazionali, geograficamente disperse. Insomma, parlo del terrorismo internazionale, il traffico internazionale di stupefacenti, eccetera, eccetera. Quindi i servizi si devono adattare per far fronte adeguatamente a queste nuove minacce. Queste misure sono state prese ugualmente anche in altri paesi, oppure insomma è una novità prevalentemente? No, questo, vabbè, adesso gli altri paesi, cioè ognuno cerca di adattarsi. Quello che è cambiato probabilmente che c'è sicuramente un'esigenza e un riconoscimento di un maggiore coordinamento a livello europeo, ma anche a livello di alleanze, insomma a livello di paesi alleati o comunque condividono le stesse finalità, perché lo scambio di informazioni è fondamentale, è la prima cosa, e questo si sente molto più di prima, perché prima c'era sempre una certa così gelosia, ritrosia a gestirsi le proprie informazioni, e si è capito che questo certo non paga. Mentre l'ascoltavo avevo un po' di domande nella testa che mi frullavano, ovviamente. Parlo da quella più semplice. Lo scandalo profumo. Lo scandalo profumo è in qualche modo quello che ricordo, perché io non è che sia un grande esperto, è un classico. Eravamo ancora in un periodo, come dire, di guerra fredda, e quindi di lotta ideologica, politica tra i due blocchi contrapposti, e c'era tutto un sistema di spionaggio da una parte e dall'altra, e venivano utilizzati tutti i mezzi a disposizione dei servizi, e in genere l'utilizzo di agenti, donne affascinanti, fatali, è sempre stato un classico, tanto che io racconto la storia di una spia che si dice che abbia cambiato addirittura il corso della Seconda Guerra Mondiale, ed è una storia talmente classica da sembrare non vera, eppure è così. La spia si chiamava Cinzia, al secolo Amy Elizabeth Thorpe, ed era una splendida trentenne americana, molto bella, bionda, occhi verdi, quindi da sembrare inventata, che per proprio spirito di antinazismo, per convinzione nei valori americani, per dare il proprio contributo alla causa alleata, mette a disposizione il suo corpo, cioè quando viene reclutata dai servizi segreti inglesi che operavano in America, si dice disposta a sedurre eventualmente, se necessario, ufficiali, diplomatici, nemici, per dare il suo contributo, che poi fu eccezionale, perché riuscì a mettere a colpo riuscì a realizzare due colpi veramente importanti, uno purtroppo a nostro danno, a danno degli italiani, riuscì a impossessarsi dei cifrari navali italiani che erano custoditi nell'ambasciata d'Italia a Washington, attraverso la seduzione di un ufficiale italiano, e questi cifrari consentirono agli inglesi di leggere praticamente in contemporanea con l'alto comando italiano gli ordini che erano stati dati alla nostra flotta a capo Matapan, che avrebbero dovuto svolgere un'azione di sorpresa nei confronti della flotta britannica, e per questo non furono gli italiani a sorprendere gli inglesi, ma gli inglesi a sorprendere gli italiani. Nella battaglia di capo Matapan del 28 marzo 41 gli italiani ebbero 2300 morti, 5 navi affondate, una tragedia per la nostra marina. Gli inglesi praticamente non ebbero perdite, E furono fatte le ipotesi più diverse, si parlò di, certo, della superiorità tecnica in inglese, perché gli inglesi avevano i radar, gli italiani no, gli inglesi erano addestrati al combattimento notturno, gli italiani no, si parlò anche di tradimento di ufficiali italiani per odio a Mussolini. No, la realtà è che grazie a questa spia, grazie a Cinzia, gli inglesi a Londra erano stati capaci di decifrare i messaggi italiani. E l'altro colpo incredibile, con la stessa tecnica, Cinzia si introduce nell'ambasciata francese della Francia di Vichy a Washington, si procura questi cifrari, i cifrari navali, che aiuteranno moltissimo gli alleati a sbarcare nel Nord Africa, no? nel luglio del 42, un avvenimento eccezionale, tanto che Churchill disse: non è forse l'inizio della fine, ma è certamente la fine dell'inizio, cioè la guerra sta prendendo un nuovo corso. Fino ad allora era stata molto favorevole all'asse, a partire da quel momento, una volta che gli alleati si installano in Nord Africa, sarà favorevole invece agli alleati. Prima lei parlava di cifrari. Ci sono linguaggi particolari che una spia doveva necessariamente conoscere? Beh, a quell'epoca certamente sì, c'era tutta una serie di cifrari di uso personale, ma insomma i cifrari più conosciuti, più famosi, tanto perché parliamo di Seconda Guerra Mondiale, la macchina cifrante più famosa è Enigma, la macchina tedesca Enigma, sì. Che si credeva, i tedeschi erano assolutamente convinti che fosse impenetrabile, e invece non lo era, e gli inglesi, fin appunto a cominciare dal 41-42, erano riusciti a rompere questi codici tedeschi, ma non lo dissero mai. Questo è un segreto che fu svelato, figuratevi, solo negli anni 70, nel 1970. Incredibile. I tedeschi non seppero mai che tutti i loro messaggi venivano sistematicamente decifrati e letti dagli inglesi, e questo poi spiega tante cose, perché a un certo punto finì la guerra sottomarina dei tedeschi, perché a un certo punto gli inglesi sapevano benissimo le rotte dei sottomarini tedeschi. E ecco la battaglia, dicevo, di Capo Matapan, fu un aiuto. Certamente non bisogna credere che tutto può essere possibile attraverso i servizi segreti, no, questo nessuno lo può pensare, perché poi ci sono rapporti di forza che possono comunque prevalere, anche se si detiene, diciamo, in anticipo una notizia, però sicuramente aiutano nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È probabile che se gli alleati alla fine hanno vinto, un aiuto consistente l'hanno dato i servizi segreti, che funzionavano probabilmente meglio di quelli nazisti o di quelli italiani, insomma degli altri. Io ho un'ultima domanda, perché Mary D mi sta costringendo, io ce ne faccio due. Una, sono la cattiva di turno, lo so. Una è sul segreto di Stato. Riusciremo, e questa è un'opinione che le chiedo con un sì o no, perché è difficile da commentare. Riusciremo mai a scoprire cosa ci sta dietro Ustica? Ah, questa su Ustica. Certo, adesso con questa nuova normativa dovrebbero essere declassificati tutti i documenti, e finalmente forse potrà sapere la verità, perché prima in realtà non c'era un limite temporale, per cui una volta posto il segreto di Stato, se non veniva tolto, rimaneva per sempre. E adesso una volta si può chiedere una proroga, ma una sola volta, quindi dopo 30 anni questi documenti automaticamente si declassificano, e 30 anni non sono molti. No, sono molti, quindi penso che ne vedremo delle belle. Beh, speriamo almeno di poter capirci qualcosa. E invece l'ultimissima domanda è: quando lei parlava di rivoluzione, di spionaggio intelligence, però Echelon, visto che parlava anche di intelligence americana e inglese, Echelon da che parte sta? Sta più dalla parte dell'intelligence? Echelon fa parte un po' della una degenerazione dell'intelligence tecnica, no? Che si è sviluppata con la guerra fredda. Effettivamente è un sistema che consente di controllare, è vero, tutte le anche un semplice email che si manda, certo. Può essere controllato, e certo non avviene, non è che si controlla tutto, ci sono dei sistemi per cui in certi periodi interessano solo certi argomenti o certe parole, c'è, cioè, insomma un incredibile sistema di selezione per poter arrivare ad avere le notizie che possono interessare, però è vero, è un'intrusione, se vogliamo, nella vita privata di ciascuno, e difficile dire, come dicevi, forse è più il primo che il secondo. Certo. E poi invece la curiosità, ecco, così, che non è una domanda, ma il fatto che non si riesca, ma non tanto a sconfiggere Al-Qaeda, quanto il fatto che non si riesca a prendere il personaggio che ha mosso almeno gli ultimi 10 anni della vita mondiale, beh, dobbiamo considerarlo un fallimento dello spionaggio e dell'intelligence, o dobbiamo pensare che le cose sono più complesse e quindi questa non è la risposta corretta? Sono, come dicevi, più complesse, nel senso che forse l'errore che è stato fatto è di fare troppo affidamento all'intelligence tecnica, trascurando quello che è il fattore umano, come si dice, la buona vecchia spia, no? E per cui non tutto si riesce a sapere attraverso i satelliti, attraverso gli ascolti, anche perché i terroristi sono nello stesso tempo sofisticati, ma possono ricorrere anche a dei sistemi molto primitivi, cioè se dei terroristi si riuniscono in una grotta, non c'è satellite che riesca a intercettare la loro conversazione, certo. A sapere che cosa stanno complottando. Se invece un infiltrato è con loro, allora certo che lo può dire. Quindi sicuramente una lezione è stata quella di cercare di contemperare questi due aspetti, no? Il fattore tecnico, ma soprattutto il fattore umano. Abbiamo visto quanto sia importante, ma purtroppo abbiamo avuto il nostro agente, no, a Kabul, che è morto nei giorni scorsi, ed era probabilmente il tipo di agente moderno, cioè una persona che innanzitutto dovrebbe conoscere le lingue rare, no? Perché lui le conosceva, quindi probabilmente poteva fare un lavoro molto molto utile, e lo ha fatto fino all'ultimo, perché sembra che parlando con il capo della polizia, insomma, abbia aiutato moltissimo l'intervento poi che poi c'è stato, insomma, ha salvato i nostri connazionali. Ma insomma, per dire che probabilmente, ecco, l'errore è stato proprio questo, di fidarsi troppo delle informazioni meccaniche che possono derivare, certo. E quindi bisognerà incrementare questo tipo di presenza di infiltrati, di informatori, perché altrimenti sarà molto difficile venire a capo di questi terroristi che si nascondono dovunque, che utilizzano sistemi appunto primitivi, ma proprio per quello difficili da intercettare con i sistemi sofisticati dell'intelligence di oggi. Sì, in effetti io sono convinto che i sistemi di comunicazione si sommano, ma non si annullano a vicenda, quindi quello che si faceva con il linguaggio dei segni in poi, fino alla parola, e poi tutto, insomma, tutta l'evoluzione tecnica, come si diceva, sono state tutte, sì, cose che si sommano. Tra l'altro credo che in Italia noi abbiamo sempre un po' sofferto dell'immagine distorta che hanno avuto i nostri servizi, contrariamente a quello che succede in altri paesi, per esempio in Inghilterra, dove Beh, non è un caso che James Bond sia inglese, cioè voglio dire, non poteva che essere inglese. In Inghilterra, dove i servizi sono guardati, considerati con rispetto, con ammirazione, non c'è stata sempre questa presunzione di considerarli deviati, mentre da noi l'aggettivo si aggiungeva quasi automaticamente: servizi segreti deviati. I servizi segreti deviati, è vero. Importante adesso cambiare approccio, fare in modo che questi servizi diventino appunto uno strumento, come dicevo prima, al servizio dello Stato, perché poi quando non ci sono i servizi si sente la loro assenza, cioè dei servizi si parla sempre quando c'è qualche fallimento, perché quando ci sono dei successi difficilmente se ne parla, cioè se si evita un attentato forse non se ne sa nulla. Quando ci sono degli eccessi o degli errori, è vero, la CIA, voglio dire, di errori probabilmente ne ha fatti tanti, però è difficile poter pensare di fare a meno dei servizi, bisogna solo cercare di renderli più efficienti e sicuramente più al servizio della collettività e non di un partito politico o di un personaggio o anche di un governo, ma devono diventare uno strumento di politica di sicurezza interna dello Stato. Benissimo, allora io Domenico veramente ma io con questo non è che ho voluto fare l'apologia, l'approccio dei miei due libri è piuttosto storico, no? Voi l'avete capito. Sì, no, questo è un ripercorrere un po' le varie tappe, soprattutto di vari personaggi, perché i personaggi interessanti ce ne sono tantissimi dall'antichità, ma solamente nella seconda guerra mondiale, di spie, certo. Cioè di persone. Certo. Adesso mi è venuto in mente, ma non c'è tempo di raccontare, ma voi vi ricordate un film che si chiamava Operazione Cicero? Immagino di sì, un film degli anni 50 con James Mason che faceva la parte di Cicero, che era una spia, era il cameriere personale dell'ambasciatore inglese sì, ad Ankara, esatto, sì, che esatto. Fotografava tutti i documenti, ma è una storia anche divertente, perché quando Cicero va a vendere ai tedeschi questi documenti, i tedeschi non ci credono, fanno finta di crederci, sono convinti che è una provocazione da parte degli altri. E invece no. Che cosa succede? Che lo pagano, la somma prevista, quindi viene raccolta, e però lo pagano con sterline false, tra l'altro in un programma, certo, dei tedeschi di invadere l'Inghilterra con sterline false, ma insomma ed era divertente pensare che Cicero desse delle notizie vere considerate false e veniva ricambiato con denaro considerato vero ma che era falso, quindi un personaggio anche un po' patetico, perché poi no ma è chiaro, scusa se interrompo, ma è chiaro che insomma il libro è un percorso storico, diciamo che è un libro chiaramente storico, cioè sull'evoluzione cominciamo già dagli egizi, quindi insomma è un po' lontana quindi è semplicemente per capire, un libro che serve, parla del passato e che magari può essere una delle possibili chiavi di lettura del presente, insomma, ecco, io direi così. È così, e soprattutto, no, lo dico per chi fosse eventualmente interessato, non è un saggio tecnico né uno studio accademico, appunto è uno studio divulgativo fatto per i giovani, per gli studenti che volessero così dare un'occhiata al mondo poco conosciuto dell'intelligence. Benissimo. Domenico, benissimo. Noi siamo veramente stati rapiti dalla tua diciamo conoscenza della domenica. Siamo veramente lieti di averla avuta nuovamente nostro ospite. Ci faccia sapere cosa bolle ancora in pentola e noi saremmo Sì, normalmente non si dice, però posso dire, perché no, visto che sei stato così cortese, insomma, di starmi a sentire per ben due volte. E adesso mi sto interessando ai dittatori del XX secolo, però non ai grandi, che ormai sono talmente conosciuti, insomma, i vari Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, no, a quelli più così grotteschi o poco conosciuti, tipo, non so, Bokassali, no? L'imperatore del Centro Africa, o il dittatore del Turkmenistan, insomma, ecco, questo tipo di personaggio che insomma, ripercorrendoli si scoprono veramente cose molto molto interessanti e poco conosciute. Bene, allora avremo sicuramente modo di riparlarne. Appena è pronto vi faccio vivo. Assolutamente. Grazie. Con piacere. Allora noi le auguriamo ancora un'ottima serata. Grazie. E speriamo a prestissimo. Grazie, arrivederci. Grazie. Buonasera, ancora. Buonasera. E adesso andiamo con? Librangolo. Che cosa ci hai preparato questa sera? Ho preparato 8 minuti, una corsetta nel mondo della musica. Wow, la musica è un altro linguaggio, non è letteratura, non è pittura, cioè proprio è un altro linguaggio. È così tanto diverso che c'è anche chi nasce semplicemente la capacità di riuscire ad apprezzarla, e c'è invece chi nasce con la capacità di sentire la musica quasi come un impatto fisico, cioè con le fibre del corpo che rispondono, diciamo. Ma è difficile chiedere che cosa si sente quando si risponde alla musica. Non sto pensando a categorie di teoria della musica o di critica, delle tecniche di eseguimento, eccetera, eccetera, ma di quel qualcosa difficilmente rendibile in parole che la musica porta con sé. E secondo me Bruce Chatwin magari direbbe che la musica, prima apparso come canto, era il modo di conoscere il mondo. Magari direbbe che rispondiamo ad un richiamo perso nella notte dei tempi, in cui la musica ci trasmette un codice di luoghi e storie che non hanno più contorni per noi. Magari è così, magari no. Come gli aborigeni australiani. Come gli aborigeni australiani, infatti. Ma una cosa certa c'è, e quello è che la musica c'è. E infatti ci sono anche gli scrittori che cercano di rendere questa musica percepibile anche attraverso le parole. Vadi pure. E così, per esempio, nell'epos un po' dell'era romantica della letteratura, George Sand, che si intitola Consuelo, si tratta di una giovane cantante dalla voce pura, forte, bellissima, in cui si riflette anche la sua purezza d'anima e rara sensibilità. La sua voce ha un vero potere, brilla e la salve dalle trappole nelle sue avventure, e ha il potere anche di innalzare l'animo altrui. Quindi questa voce è un protagonista della storia, delle tante peripezie che portano Consuelo, la giovane cantante, dalla Venezia fino alle montagne della Boemia, perché George Sand, avendo fatto tanti viaggi, ha fatto anche un viaggio in Italia, ne ha anche scritto un libro, e quindi lei era abbastanza innamorata dell'Italia, specialmente della Venezia. E come si fa? E magari la sua sensibilità per la musica magari nasce anche dalla sua intimità con Frédéric Chopin stesso, chi lo sa? Chi sa. E quindi, tornando sulle nostre terre buie nordiche attuali, il romanzo Il segreto di Anna Enquist, che non è tradotto in italiano, però chi riesce a leggere in olandese è libero di farlo. Prego, gira attorno a Wanda, una pianista di grandissimo talento ed è anche di una grandissima solitudine, che prima è costretta di chiudersi in se stesso, ma poi diventa una scelta di vivere da sola i suoi problemi, avendo solo la musica come la cosa più vicina a sé. Ma la musica è protagonista anche in altro, cioè è proprio là come un linguaggio, come una comunicazione, come un sostegno, cioè la musica penetra il libro. Per esempio è anche l'unico metodo di comunicazione con il fratello handicappato della pianista, che magari è questo il solo linguaggio che lui capisce. è nato senza la capacità di capire gli altri linguaggi, soltanto quella della musica. Quindi è un libro abbastanza bello, c'è un sacco di feeling di Bach, si può dire, che lei usa per esempio per riequilibrare il mondo, oltre che riscaldarsi per suonare qualsiasi altra musica. Ed ecco, è un libro interessante, magari c'è in inglese, però non ve lo garantisco. Invece gli autori inglesi sono sempre più fortunati rispetto a quegli altri. Ci sarà in olandese, dai. Esatto. Cioè, gli autori inglesi sono più tradotti, e per esempio è il caso anche di Vikram Seth, che ha scritto un libro che si chiama Una musica costante, e che cerca di invece di guidarci nel mondo dei quartetti. Mm-hmm. Ad arco, anche se il libro gira attorno il suonare un quintetto di Beethoven molto raro, in cui c'è anche un pianoforte oltre al quartetto di archi, e la pianista non è altro che un vecchio amore del protagonista Michael, che è una pianista di talento, però che sta per diventare sorda, e ciò nonostante riesce a suonare in modo supremo, anche se non sente, praticamente sente soltanto le vibrazioni che produce, ma non sente veramente i suoni. Come il povero Beethoven. Come il povero Beethoven, infatti. Cioè, sinceramente il resto della storia io lo trovavo un po' annoiante, diciamo, cioè non noioso, ma annoiante, perché questo benedetto Michael, scusate se lo dico così, è proprio uno insopportabile, ma leggetelo, ecco. Invece nel Lea di Pascal Mercier, che è un altro fortunato che è stato tradotto, titolo italiano è Partitura d'addio, ma non capisco perché l'hanno detto questo titolo, perché Lea a me piace molto di più. E in questo libro entriamo nel mondo dei violini. Lea da bambina perde la madre e rimane solo con il padre, un po' catatonica dal dolore. La sveglia il suono di un violino nel sottopassaggio, e da allora in poi, con una naturalezza quasi spaventosa, il violino, diventa la sua passione. Ed è infatti anche il suo talento innato, cioè proprio naturale, cioè il successo, il progresso spettacolare, tutto ciò le viene in modo... cioè naturale, proprio da spaventare. Per il padre la musica della figlia diventa prioritaria, e i due si sprofondano in un mondo senza confini, che però pian piano li distrugge. Non prima di sentire però la gioia di cattedrali di musica che la ragazza riesce a creare con la sua musica, che avvolge i personaggi, fra suoni di amati e guarnieri, che cioè, lo scrittore cerca di rendere attraverso le parole, mica è facile. No. E invece, se vorrete sprofondarvi nello jazz della letteratura, vi raccomando soprattutto la trasmissione della prossima settimana di Stefano, Jazz di Dintorni, martedì alle 8. Però vi dirò una indicazione che sicuramente lui non menzionerà, perché non è letteratura noir mediterranea, e infatti è il giapponese Haruki Murakami, che si illustra i suoi paragrafi con tanti brani di musica suoi preferiti, perché lui ha anche fatto proprietario di bar di jazz. Incredibile. Insomma, è una cosa incredibilmente incredibile. Ma hai finito tutto? C'era un paragrafo che mi sa che tu non hai... No, mi dispiace, non ho lasciato fuori anche niente. Quello è Vikram Seth, mi dispiace. Avevo letto male. Beh, sta bellissimo. Comunque è vero, la prossima settimana, Jazz d'intorno, ci sarà un connubio interessante fra letteratura e musica. Insomma, mettetevi in ascolto alle ore 8, perché è veramente qualcosa di particolare, sì. Noi vi ringraziamo, veramente siamo in chiusura, è stata una puntata effettivamente ricca di tante chicche e curiosità. Ci rivediamo martedì prossimo, abbiamo un graditissimo ospite qui a Brussellando, e speriamo vi faccia cosa gradita. Buona settimana, grazie a George, grazie a Imola, grazie a Daniemme, e a martedì. Ciao, ciao Meridì, ciao a tutti!